cerco di arrivare fino a blocco 14, perché è necessario. Ieri ho visto Ball e... E la sua ragazza? Niente, non ce l'ha fatta, lei non ce l'ha fatta. Però comunque così prendo una... così la tuta protettiva e spero che sia sufficiente. Solo la tuta protettiva, forse è meglio che prendi anche la maschera. Cosa okay, pensi? Così parto ora. No, è meglio aspettare ancora un quarto d'ora, 20 minuti, prima di uscire, che faccia più buio. Guarda fuori come stanno le cose. Guardo fuori adesso, sì. Hai guardato fuori, che cosa succede? Niente. Niente. Come niente? C'è qualcuno fuori? No, tutto uguale come prima. Sembra che nulla si sposti. In effetti vale la pena tentare, dammi. Sì, va bene, te la porto. Va bene, sì, vado.